Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Puntata ricca di temi e di spunti, quella di questa settimana, il primo appuntamento del mese di febbraio. Diverse iniziative che la Caritas ha segnalato tramite la sua newsletter periodica. Il primo capitolo che vi segnaliamo è una verifica sugli strumenti per l'animazione dell'Avvento 2016, perché in vista della programmazione dell'Avvento 2017 è necessario capire che cosa è funzionato, che cosa invece c'è da ricalibrare. Un questionario che appunto è raggiungibile tramite la newsletter della Caritas di Padova, in cui si chiede di specificare quali strumenti proposti sono stati letti o usati tra le schede, il regalo per la chiarastella, il calendario di avvento, i manifesti, gli approfondimenti online. Questionario che è anonimo, basta specificare di quale incarico facciamo parte, quindi o parroco, catechista, coordinatore o volontario oppure altro. Poi si chiede una valutazione appunto con il sistema delle stelline da 0 a 5 sugli strumenti, sulle schede dedicate all'animazione pastorale, quanto fosse interessante, quanto fosse comprensibile questo materiale, quanto facilmente utilizzabile in parrocchia. Stessa valutazione appunto con le stelline da 0 a 5 per gli strumenti distribuiti su richieste e anche sui manifesti personalizzabili per la promozione. Viene chiesto di indicare quali approfondimenti online sul sito caritaspadova.it nella sezione avvento sono stati utilizzati e come vengono valutati, sempre con la modalità delle schede. Tempo 5 minuti appunto per rispondere a questo questionario riguardante, ripeto, il materiale e gli strumenti per l'animazione dell'avvento 2016 in vista della preparazione delle schede per il 2017. Ci sono novità per quanto riguarda le agevolazioni, perché la Caritas si occupa anche di cose estremamente concrete che vogliamo condividere con voi. Ad esempio, per quanto riguarda il bonus energia, c'è una novità per il bonus elettrico. Con dei criteri, evidentemente. Bonus elettrico che riguarda ad esempio i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 8.107,50 euro, oppure nucleo familiare con più di 3 figli a carico, indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro. Rimangono le agevolazioni che già sono concesse alle persone con disagio fisico e anche il bonus gas e il bonus acqua. Tutte le informazioni si trovano presso gli sportelli INPS, CAF, i comuni di residenza. C'è poi il contributo al sostegno inclusione attiva, SIA, questa è la sigla, rivolto a cittadini italiani, europei, stranieri in possesso di carta di soggiorno permanente oppure permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L'ISE in questo caso deve essere inferiore a 3.000 euro. Il contributo SIA monterà da 80 a 400 euro al mese a seconda del numero di componenti il nucleo familiare. Poi c'è il contributo bonus bebè, è un aiuto alle famiglie a cui nasce un figlio nel 2017. La domanda deve essere presentata dal genitore convivente con ISE minore di 25.000 euro. L'importo annuo dell'assegno è di 80 euro al mese, 960 euro per figlio. Se l'ISE non supera i 7.000 euro, l'importo viene raddoppiato a 160 euro al mese, 1.920 euro all'anno. Decorre dal giorno della nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Anche qui la richiesta va fatta all'INPS per via telematica entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia. Ricordiamo poi ci sono altre agevolazioni confermate l'assegno statale alle famiglie con almeno tre figli minori. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio, cioè se intendiamo chiedere il beneficio per il 2017, il tempo è il 31 gennaio 2018. Poi c'è l'impegnativa di cura domiciliare, che è un contributo economico regionale a favore di chi si occupa in famiglia di persone non autosufficienti. C'è la carta acquisti, la social card, c'è il canone Telecom con delle agevolazioni, contributo alle neomamme lavoratrici, il bonus per i genitori giovani, contratti di locazione a canone concordato, il fondo per la morosità incolpevole. Insomma, sono molti gli strumenti a disposizione, appunto, che vengono condivisi appunto in questo spazio, e lo ha fatto la Caritas diocesana di Padova tramite la sua newsletter di febbraio. Ancora del terzo punto che vi segnaliamo, il progetto Hermes 92, un progetto di ritorno volontario assistito che offre la possibilità al migrante che lo desidera di ritornare nel proprio paese di origine attraverso un aiuto economico e in costruzione del proprio piano di reintegrazione. Possono partecipare migranti, singole famiglie provenienti da Marocco, Tunisia, Senegal e Albania, perché qui ci sono gli accordi firmati. In Italia c'è un colloquio informativo con la consulenza personalizzata, l'organizzazione e la copertura economica del viaggio, il sussidio di prima sistemazione. Nel paese di origine un contributo economico al ritorno dato in beni o servizi, l'accoglienza da parte di un'equipe specializzata di operatori locali e italiani, cioè non si viene abbandonati ma si viene seguiti appunto in partenza e in arrivo, l'assistenza nella ridefinizione e realizzazione del progetto di inserimento lavorativo, il monitoraggio del reinserimento sociale per 6-12 mesi, questo appunto come ulteriore segnalazione. Per partecipare appunto ci sono diversi riferimenti a seconda appunto che la provenienza sia Marocco, Tunisia, Albania o Senegal. Cercate progetto Hermes 2, 2 scritto in cifra, appunto su Google. Questo come condivisione appunto dei materiali diffusi dalla Caritas di Padova per questo mese di febbraio. La settimana prossima invece, ve lo posso già annunciare, ci occuperemo della giornata di spiritualità missionaria che sarà il 19 di febbraio. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.